Bene, grazie. Allora, Pepe, siamo tutti con te. Dopo questa cornice del ritornato, forse vi attendete un quadro della stessa qualità. Ecco, questo non sarà perché, diciamo, lo stato delle mie ricerche in questo campo è piuttosto frammentario e deriva anche la sua origine quasi da una falsa partenza. Cioè, io ero impegnato una decina di anni fa a cercare di ricostruire un po' la storia dell'insegnamento della matematica nell'Università Italiana del 700 e poi dopo portarlo avanti. Ecco, e a un certo punto mi sono diciamo, imbattuto perché avevo fatto dell'insegnamento della formazione universitaria dell'ingegnere, perché appunto quella che si chiamava facoltà matematica nell'Ottocento in realtà non avevo come scopo di formare professori di matematica, i quali spesso andavano a insegnare senza laurea, diciamo, ma avevano invece lo scopo di formare gli ingegneri. Questo è un po' la storia. Allora, il tema che ho scelto, cioè quello di limitare l'indagine alla formazione degli ingegneri del periodo napoleonico, dipende però da una condizione, diciamo, forse ingiustamente, perché ripeto, non ho fatto che era necessario fare, però che da alcuni anni mi sono convinto della centralità di questo periodo e gli scontri che ne derivano mi confermano sempre di più su questa posizione. Cioè, quindi, perché fondamentale? Basta scorrere gli elenchi che uno ha delle università italiane, le varie carceri dell'università italiana. Più o meno a volte ci sono questi. Per esempio, per Pavia ci sono già dall'Ottocento questi quadri degli insegnanti dell'Università di Pavia. Ecco, si scopre che con l'inizio dell'Ottocento le materie tipo architettura civile, calcolo sublime, meccanica, eccetera, si trovano con una presenza nuova, cioè non si ha più un insegnamento su insegnamento del gruppo matematico, diciamo, ci sono 5, 6, 7. E questo praticamente continua fino a tutto l'Ottocento, fino a quando poi ci sono le riforme, ma siamo già abbastanza avanti, quindi non nel 1860, siamo intorno al 1860, le riforme di Coppino, nel 1876, cioè, dove ci sono nuovi indirizzi. E c'è, diciamo, che si delinea allora chiaramente una matematica, un insegnamento della matematica distinto dall'ingegneria, con il suo corpo, quindi con la sua vocazione alla ricerca e alla didattica nelle scuole superiori. Ecco, quindi la discontinuità, diciamo, che riscontra, così dire, quasi a colpo d'occhio, appunto per l'insegnamento delle materie legate alla questione dell'ingegnere, anche in questo momento ingegnere significa ingegnere architetto, cioè quello che produce le case, cioè, la chimica appunto nasce come disciplina praticamente nella stessa data della rivoluzione francese, gli studi di Lavoisier sono nella stessa data. E in questo periodo c'è un grande sviluppo della chimica fisica, ovviamente gli anni che vanno tra Lavoisier e il 1810, eccetera, Gay-Lussac, Laplace, cioè tutta la chimica fisica, vuol dire, nasce in questo periodo. Però ecco, a livello poi di applicazione industriale andiamo avanti, non abbiamo la rivoluzione industriale, anche se, non so, per esempio la famosa terrichina è stata inventata da Bertolini, la famosa Odriciarelli, no? Ed è appunto uno dei prodotti, diciamo, della rivoluzione francese che ha servito moltissimo per il cerebro. E così diciamo ci sono delle scoperte importanti anche dal punto di vista sociale, che sono fondamentali, però non siamo di fronte a un'organizzazione della produzione per cui si deve pensare a creare un corpo di esperti di elevata professionalità, come sono gli ingegneri, per l'industria chimica. Questo succederà. Quindi, per questo, per l'ingegnere, significa ingegnere. Ecco, allora dicevo, questa discontinuità si ritrova in questo periodo e non nei periodi precedenti. Questo nonostante che nel Settecento ci siano stati in Italia diversi tentativi di riforma dell'università. È una produzione cartacea, diciamo, di grande valore. Per esempio, penso agli studi di Friis, ai tentativi di Friis di formare gli insegnamenti tecnici dell'Università di Pavia e per fermare appunto quelli di Gianfrancesco Malfatti, che pure in modo di minore rispetto a Pavia, però con una certa importanza, perché l'Università di Ferrara fu l'unica università dello Stato Pontificio ad avere una sostanziosa riforma del Settecento, no? E sapete che Benedetto XIV per lunghi anni tentò di riformare l'Università di Bologna, la Papa, l'Arcivescovo di Bologna, ma non ci riuscì. Ecco, non ci riuscì perché era fortissima la resistenza dei collegi notturali. Allora bisogna capire un po' qual era la struttura dell'università, diciamo, dell'antico regime, per capire come questa resistenza. Allora, intanto è sbagliato parlare di università nell'antico regime, perché l'università non è una, ma sono due o tre, le università. Non c'è l'università, ma ci sono le università. Cioè, di università, correttamente, si può parlare soltanto dalla legge di settembre 1802, in cui viene appunto creare l'Università della Repubblica. Le università dell'antico regime, appunto, non erano poi molto diverse da come si erano venute lo strumento nel Tarn, ed erano due le principali. In Italia ci sono differenze un po' tra i modelli stranieri, parliamo un po' dell'area padana, l'area italiana che diciamo, ha una sua omogeneità, cioè l'Università delle Arti, medicina, e l'università di giuridica. Allora, queste università sono lette da propri rettori, sono lette, hanno i propri professori, hanno il proprio rotolo, sono completamente, diciamo, separate l'uno dall'altro. Non solo, però, le università non attribuiscono i titoli dottorali, ma i titoli dottorali sono attribuiti dai collegi. I collegi sono delle corporazioni in cui entrano in minoranza i docenti dell'università e che appunto hanno questo compito di, appunto, di accogliere e di attribuire il titolo dottorale. Quindi così sta la situazione. Allora c'è un collegio giuridico, a volte due collegi, uno di diritto canonico e uno di diritto civile, c'è un collegio di arti. Questi danno l'età. Allora che succede? Che anche se si riesce a riformare l'università, il titolo non si riesce a sbloccare la situazione dei collegi. E questo rimane la cosa. Allora, i collegi tengono fissi gli ambiti dei titoli di studio. Quindi non si riesce, nonostante che dentro le università settecentesche trovano spazio, per esempio a Ferrara, degli insegnamenti abbastanza moderni di geologia pratica, di analisi matematica, di geometria analitica, per esempio, anche di architettura, eccetera. Nonostante che questi trovano spazio, non si riesce ad avere uno sbocco istituzionale. Perché le lauree che vengono conferite sono sempre quelle, o in arte, in medicina, o diciamo in accelerato in arte, o in titolo di dottore, in diritto canonico, in diritto civile, o in letteratura. Quindi, fin quando con l'esperienza francese in Italia non si crea una rottura radicale, diciamo, su questo fronte, non si apre una vera e propria istituzionalizzazione dell'ingegneria. Allora, quindi, Sennati, ecco, i tentativi di Frisi, eccetera, hanno successo come organizzazione interna dei collegi, oppure per suggerire un certo insegnamento, un'articolazione didattica, ecco, ma non hanno successo, diciamo, sul punto principale, cioè la creazione di uno statuto, diciamo, universitario per l'ingegneria. Allora, adesso andiamo faccio vedere qualche trasparente, non perché sia strettamente necessario, ma perché... Ecco, questa è la situazione un po' la cartina dell'Italia. Ora, quando si parla di Italia nel periodo napoleonico, purtroppo non si parla di una situazione così ben definita. Io ho sottolineato un certo numero di città che sono sedi quando arrivano i francesi nel 1796, o di accademie o di università. Ce ne sono anche altre, per esempio non ho sottolineato Perugia, non ho sottolineato Siena. Ecco, per esempio, non so, Bologna, sede di un'accademia e di un'università, Padova ugualmente, Ferrara sede di un'università, anche le piccole città della Romagna, Cesena, sede di un'università, Urbino, eccetera. Pisa naturalmente sede di un'università, Pavia è sede di un'università, Torino è sede di un'accademia di un'università, Verona è sede di una società italiana, di un'accademia. Quindi c'è un notevole fiorire e c'è una situazione diversa dalla situazione francese. Cioè quando appunto i francesi arrivano in Italia, loro non hanno più l'università, perché l'8 agosto 1793 la Convenzione Nazionale ha deciso che tutte le accademie e le società stipendiate, le università e le società stipendiate dello Stato devono cessare. Quindi siamo di fronte alla soppressione delle università. L'anno dopo, però, appunto, sono partite queste esperienze della scuola normale dell'anno terzo, della scuola dell'École Polytechnique, no? Che si sono delineate quelle che poi saranno le cosiddette grandi école della tradizione francese. Ecco, invece in Italia, diciamo, le università nel Settecento non solo c'erano di antica tradizione, ma in qualche modo erano state riformate. Quindi io vi ho detto prima l'aspetto negativo di queste riforme, che non incidono, diciamo, sulla sostanza finale del titolo di studio e che quindi non possono assicurare uno status accademico alla religione. Però c'è anche un aspetto positivo. L'aspetto positivo è che un numero di docenti qualificati lavorano dentro l'università. E questo è il caso soprattutto di Pavia. E quindi c'è all'interno dell'università, ci sono, diciamo così, delle potenzialità che desiderano essere espresse. Quindi questa è la situazione che si presenta. Ecco, la difficoltà di questo periodo è che non abbiamo quasi mai, diciamo, delle linee di stati ben delimitate, no? Abbiamo prima l'esperienza della Repubblica Cisalpina, poi abbiamo la Seconda Cisalpina, poi abbiamo la missione del Piemonte, poi abbiamo la missione della Toscana, poi ancora la missione del Lazio, l'impero. Ecco, e a un certo punto però si viene a trovare quasi alla fine del periodo napoleonico alla situazione di una certa, diciamo, compiutezza almeno geografica. Cioè l'Italia napoleonica è divisa in tre regioni, che per quanto riguarda la strada sull'insegnamento per gli ingegneri prendono posizioni diverse. Quindi vanno esaminati tutte e tre. Allora, la prima regione comprende, grosso modo, il Piemonte, Genova, Parma, la Toscana e il Lazio. E questa fa parte dell'impero francese. Quindi sono dipartimenti della Repubblica. Quindi Napoleone, imperatore, e tra le altre cose responsabile come imperatore. Poi c'è il re di Napoli, che dal 1806 è affidato prima potere che volevano fare il Murato, e che non comprende la Sicilia, dove ci sono i Borboni, la Sardegna, ci sono i Savoia, ecco. E poi c'è la parte del nord-est, quindi la Lombardia, il Veneto, a partire dal 1806, le Romagne, l'Emilia, le Marche, d'accordo? Che invece fanno parte del, che costituiscono, diciamo, il prima la Repubblica Italiana e poi il Regno d'Italia. Allora, comincerò a studiare, anzi mi baserò molto su una discussione di quello che succede su questa ultima parte, poi dopo farò un cenno comparativo per le altre due regioni. Perché E qui che ci sono forse, diciamo, dei caratteri di maggiore differenza con il modello francese. Allora, questa parte, quindi anche la capitale Milano, e come seconda città Bologna, costituisce all'inizio, già nel 1797, la Repubblica Cisalpina. La Repubblica Cisalpina si dota di una Costituzione, anzi non si dota, ma Napoleone gli dà la Costituzione, e questa Costituzione è ricalcata sulla Costituzione francese dell'anno terzo, quella del 1795. Tra le altre cose, la Costituzione dell'anno terzo prevedeva la creazione dell'Istituto per le Scienze Italiane, qualcosa che sommasse da una parte le competenze scientifiche delle antiche accademie, ma dall'altra parte avesse funzione di supporto e di direzione di tutta la pubblica istruzione, secondo il modello. Allora, siccome questa Costituzione che viene adottata dalla Cisalpina, poi dalla Repubblica di Ligure, poi dalla Repubblica Repubblica Romana nel 1798, allora si pone contestualmente con l'approvazione della Costituzione, si pone il problema di questo istituto. E quindi c'è il problema di creazione dell'istituto nazionale immediatamente, quando sorge la Repubblica, quando sorge questo istituto. Allora, per affrontare questo problema nell'ambito più generale di tutta la riforma della pubblica istruzione, viene creata il 18 gennaio del 1798 dal Gran Consiglio della Repubblica Cisalpina, che se si era Repubblica Cisalpina aveva un sistema bicamerale, cioè il Gran Consiglio che faceva le leggi, poi c'era la Camera, diciamo, dei signori, che aveva invece più funzioni di controllo, l'organo legislativo e il Gran Consiglio. Quindi viene creata una commissione di pubblica istruzione. Questa commissione di pubblica istruzione era composta da questi personaggi. Gregorio Fontana, che era professore all'Università di Pavia, Lorenzo Mascheroni, pure lui professore dell'Università di Pavia, Albruni, professore anche lui dell'Università di Pavia, Luigi Valeriano, professore dell'Università di Bologna, Giuseppe Compagnoni, professore dell'Università di Ferrara, Francesco Gianni, che era questo festeggiatore ostile a Monti, ecco, per questo più anche altro è noto nella letteratura, un ultra, diciamo, c'era una condizione molto accesa, e Ottavio Morali, che era invece un filologo. Questa commissione ha lavorato per alcuni mesi facendo un lavoro straordinario, diciamo, di esame comparativo, ecco, dei vari sistemi per le scuole, e producendo alla fine il piano di pubblica istruzione, che venne presentato al Gran Consiglio il 24 luglio 1798 dal suo estensore, che era Lorenzo Mascheroni. Ecco, un po' tutti questi personaggi meritano uno studio quasi prosopografico. Forse, vedendo che Gregorio Fontana e Mascheroni, per esempio, sono tutti e due matematici, capite anche un po' il mio interesse, venendo dalla storia della matematica, di studiare questi personaggi. Ecco, il piano Mascheroni prevedeva per l'università una divisione in quattro sezioni. Intanto le università però non venivano chiamate università, venivano chiamate scuole di approvazione. Okay. Cioè, in Francia l'università non c'era. In Italia il termine università ricordava il collegio, quindi un po' i retaggi dell'antico regime. Quindi in qualche modo si tende di eliminare il nome università e di battezzarle in un modo nuovo. Ma in realtà, diciamo, come farà per notare Vincenzo D'Angelo, che in questo piano, sarà un clinico più, più conseguente, più organico, e in realtà sarà più università, più vera e propria università. Ecco, che vengono divise in quattro, intanto presenti sono solo due, tutta, vengono soppresse le università minori, Bologna e resta università, Pavia resta università, viene soppressa l'università di Ferrara e viene soppressa l'università del Nord. Poi dopo sì, quindi si ha questa razionalizzazione. Poi si creano quattro sezioni dell'università, una di matematica e fisica, una di medicina, una di legislazione e una di filologia ed arti. E se uno poi va a leggere il programma scopre che il professore di matematica insegna uno la geometria descrittiva, trigonometria e algebra, applicazione alle curve, introduzione all'analisi degli infiniti, il secondo calcolo sublime, il terzo matematica applicata, meccanica, idrodinamica, architettura militare e civile. Questo professore spiega anche i modelli di statica e di meccanica, delle spinte, delle volte, dei ponti, dei quali ho fornito il gabinetto matematico. Vi è pure un professore di architettura e prospettiva, poi ci sono due professori di fisica. Il primo insegna la fisica chimica, e qui ci siamo, la chimica e fisica come dicevo prima, spiegazione degli elementi dei corpi, magnetismo, elettricità, meteore, e poi dopo, ancora, se continuate a leggere, i primi quattro professori, cioè i tre professori di matematica e il professore di architettura e prospettiva, esaminano per l'approvazione gli ingegneri, gli architetti e gli amministratori. Quindi la facoltà di matematica e fisica, che fino a quel momento questi insegnamenti erano acquattati dentro alla facoltà delle arti, quindi subordinati, diciamo, nel quadro dell'insegnamento di arti e medicina, acquistano invece una loro caratteristica autonoma, un primo quadro. E questa è la prima volta in cui, sia pure a livello di progetto, c'è l'idea di creare una sezione apposta per l'insegnamento di matematica e fisica. Insegnamento che però mira, come vedete chiaramente, non alla formazione dei professori di matematica, ma alla formazione dell'ingegneria. Ecco, questo quadro per le scuole di approvazione va letto insieme alla, all'organizzazione dell'Istituto Nazionale. Allora, era previsto anche un unico istituto per tutta la Repubblica, a norma della Costituzione, che è incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le arti e le scienze. La sede di questo istituto doveva essere Bologna. Ecco, questo è il grande compromesso del mondo. Cioè, Milano era la capitale politica della Cisalpina, Bologna era la capitale culturale e aveva come sede la sede dell'istituto. Ecco, vedete, anche nell'istituto si corrispondono le varie classi dell'istituto in matematica e fisica, medicina, legislazione, filologia ed arte, sono le stesse che si trovano nelle scuole di approvazione. D'accordo? E questo perché, come poi tanto fece vedere, in realtà si pensava all'istituto di Bologna che fosse così un potenziamento dell'università, non all'istituto come realtà di ricerca separata, come invece lo voleva Vincenzo Dandolo. Ora vediamo, siccome ho citato due volte Dandolo, appunto il piano Mascheroni fu criticato da un opuscolo, appunto di questo Vincenzo Dandolo, che fu una delle figure importanti della democrazia nell'ambito della Repubblica di Venezia, il quale appunto propose invece di rinunciare alla creazione di scuole di approvazione e di dare invece all'Istituto Nazionale non funzioni in parte legate alla didattica, quindi all'atere diciamo, dell'Università di Bologna, ma strutture autonome di ricerca e esclusivamente dedicate alla ricerca. Questa è diciamo, l'idea di Dandolo. L'idea di Dandolo che da una parte appunto si fa forza del modello francese. Quindi la prima cosa da osservare è che il modello francese non viene ricevuto, perché il modello francese prevedeva la creazione dell'istruzione superiore alternativa al sistema delle università. e invece qui viene mantenuto il sistema dell'università come carne dell'istruzione superiore. E questo è il momento che poi dopo la condizionata che si discute appunto astrattamente se o no appunto quali sono le origini della civiltà moderna, storia moderna italiana, dal punto di vista della storia istituzionale, questo è il modello chiaro. Cioè in questo momento, nei mesi della discussione pubblica di Torino, si fa la scelta per l'università, potendo scegliere, anzi, con forti pressioni, perché venisse invece adottato il modello francese di abbandono dell'università. Probabilmente in questo gioco nel fatto, perciò ho insistito sulla provenienza di questi insegnanti, la provenienza accademica degli insegnanti, che guarda caso provenivano tutti da esperienza, parte appunto di Valeriani, l'università di Bologna, pur sempre una realtà importante, quanto ovviamente con i suoi docenti, ecco, venivano da Pavia, università riformata, e da Ferrara, università riformata. E quindi, in questo momento, allora Dando lo dice, quindi da una parte prospetta aiutando, facendosi forza del modello francese, da un'altra parte difende il localismo, perché l'idea di non avere l'università, il pilastro di questa riorganizzazione, era che l'università doveva essere solo due per poter essere così, avere un numero, uno spettro abbastanza ampio di insegnanti, quindi un'articolazione sufficiente. Non era possibile mantenere le altre università. Ecco, mentre Dandolo, l'idea di Dandolo era potenziare le scuole centrali, cioè le scuole che sostituivano diciamo, la fascia media superiore dell'insegnamento, e quindi in sostanza livelliamo su quello che saranno poi le sedi tipo Ferrara, Modena, eccetera, anche l'università di Pavia di Bologna. Questo è un po'. Cioè, da un punto di vista si presentava come più democratica la posizione. E faceva riferimento anche a un modello prestigioso come un modello francese. Però in realtà diciamo, quello che chiedeva era di non lasciar perdere le università minori. Cioè, c'era anche questo elemento di regionalismo presente nella proposta di Dando, che non deve essere E il dibattito intorno a questo lavoro di questa commissione è piuttosto importante. E adesso partecipano, per esempio, un gruppo assai attivo a Pavia di esuli meridionali, tra i quali Carlo Lauber e Matteo Galli, che poi dopo avranno un ruolo importante appunto per la creazione dell'istruzione superiore, Matteo Galli, nel Regno di Napoli. Poi vedremo perché. Ecco, la loro posizione è più vicina a quella di Dandolo, cioè sono elementi fuori dal meccanismo università che sono stati in Francia per un certo periodo, e quindi loro attraverso un certo giornalismo piuttosto attivo, politico, in questo periodo che è piuttosto vivace, diciamo, contrastano l'attuazione di questo disegno che viene presentato come la restaurazione delle vecchie università, dei vecchi meccanismi, eccetera. Ecco, se il quadro è piuttosto interessante, secondo me, sia dal punto di vista generale, sia appunto per questo elemento innovatore, torniamo qui alla formazione degli ingegneri, appunto per la prima volta trovano un loro sbocco diciamo, all'interno dell'università, la loro consolidazione autonoma, ecco, non più dipendono dalle arti di medicina. Ecco, dal punto di vista così di quello che viene fuori, certamente il piano Mascheroni non porta a nulla. E per questo, secondo me, non è stato molto considerato da quanti hanno studiato l'istruzione del Regno Unito. E invece, secondo me, appunto, è qui, è in questo dibattito che vengono fuori alcune delle scelte poi fondamentali sul piano dell'istruzione, e quindi, secondo me, pur non essendo applicato, deve essere tenuto in grande considerazione. Napoleone, vuoi sapere, parte, poi dopo ci sono in Italia, c'è la relazione con gli austro-russi, parte per l'Egitto, c'è la relazione con gli austro-russi, poi dopo c'è il ritorno di Napoleone, che parte a Marengo, e c'è la seconda Cisalpina, che poi diventa Regno d'Italia. E che viene prima Repubblica d'Italia. Ecco, la Repubblica Italiana si dota di una legge per la pubblica istruzione, 8 settembre 1802. Allora c'è da notare questo, che tutte le leggi che riguardano la pubblica istruzione sono tutti decreti datati o Saint-Cloud o Fontainebleau, cioè sono tutti decreti dell'imperatore. Mentre le leggi che riguardano per esempio l'ordinamento della professione sono decreti vicereali. Quindi anche questo per voi che siete giuristi è importante, cioè l'idea che siamo al massimo livello normativo delle leggi che riguardano il giudizio. Allora, che cosa prescrive appunto questa legge per la pubblica istruzione? 8 settembre 1802, due università, quindi Bologna e Pavia. L'insegnamento diviso in tre classi: fisica, matematica, morale, politica, letteratura. Quindi vedete, dalle quattro classi ne sparisce una. Va bene? Dalle quattro classi di Mascheroni, e qui sempre detto che è sparita proprio la legislazione, in parte, no? Perché, beh, forse questo qui lo vedete meglio su quest'altra foglia. Vedete, qui c'è, diciamo, un po' di quadro comparativo interessante, ecco. Allora qui avete Pavia, riforma del 1771, cioè l'esempio, diciamo, più avanzato del riformismo settecentesco. L'università abbiamo quattro termini facoltà in proprio, perché ci sono termini facoltà, si trova per la prima volta nella legge del 1802. Che comanda. Allora vedremo come, in modo un po' strano, perché diciamo, la legislazione italiana da allora è sempre reticente sulla regolamentazione delle facoltà, anche nel 382, se ne vedete di facoltà se ne parla poco, rimane sempre, ora vedremo come. Allora, Pavia, quindi avete questa, quindi c'è teologia, vedete, teologia è già soppressa, diciamo, del progetto Mascheroni, però lui divide l'approvazione di matematica e fisica, medicina, all'altro ci sono il numero delle cattedre, legislazione, filologia e arte. Mentre qui abbiamo poi tre facoltà, fisico, matematica, medica e legale. Quindi come facoltà sparisce, diciamo, filologia e arte. D'accordo? Quindi praticamente fanno fuori a livello di facoltà la facoltà di lettere dell'istituzionalizzazione del 1800. Però non è così dal punto di vista disciplinare, perché c'è una doppia articolazione. Cioè, gli insegnamenti sono divisi per affinità tra di loro in tre classi, che sono matematica e fisica, morale, politica e letteratura, d'accordo? Però invece dal punto di vista dell'organizzazione sono divisi in tre facoltà. Quindi, un po' così, forse diciamo non riesco a... riesco a spiegare un po' meno. Ecco, andiamo avanti, poi spero che alla fine di riuscire a rendere chiaro questa questione con un po' quantità. Allora, intanto è prescritto che vengono date come lauree, che alla fine dei corsi ci sono lauree o approvazione per essere abilitati all'esercizio di queste professioni: facoltà legale, arte notarile, medicina, chirurgia, farmacia, professione di architetto civile, ingegnere, idraulico, agrimensore. Quindi, come sbocco professionale, per la prima volta abbiamo sancito che c'è appunto un titolo, una laurea o un titolo, che all'inizio non è una laurea, è un titolo, per professione, per ingegnere, idraulico e agrimensore. La legge di settembre 1802 venne poi precisata dal regolamento del 31 ottobre del 1803, in cui si dà il quadro di tutta la classe di scienze matematiche e fisiche. Questa è scienze matematiche e fisiche. Quindi vedete, c'è la geometria, introduzione al calcolo, calcolo sublime, matematica applicata, architettura civile e militare, fisica. sperimentale, astronomia, e poi si continua con storia naturale, botanica agraria, chimica generale, chimica farmaceutica, materia medica, anatomia, anatomia comparata, fisiologia, istituzioni chirurgiche, patologie, medicina legale, clinica chirurgica, clinica medica. Ecco, si ritorna quindi un po' alla vecchia facoltà delle arti, no? Come idea, cioè in cui gli insegnamenti matematici erano insieme con gli insegnamenti di tipo medico. Però è solo in questo, solo diciamo quando si fa il discorso delle discipline come affinità. Invece, appunto, il regolamento, alcune dell'articolo 8 del 1803, precisa questo: ritenuta per gli oggetti scientifici la divisione degli studi in tre classi, per gli oggetti disciplinari si osserva che la distribuzione delle cattedre nelle seguenti facoltà, ciascuna delle quali forma un collegio destinato agli esami e dalla collazione dei gradi, salve le modificazioni che potranno risultare dalla divisione e unione di cattedre che fossero dal governo stabilito. Quindi questo è il quadro delle discipline. Però invece il quadro del funzionamento dell'università è diviso e dato dalle facoltà. E qui compare per la prima volta il nome facoltà in questo senso, cioè nel senso abbastanza bello. C'è la facoltà fisico-matematica, la facoltà medica e la facoltà giuridica. All'interno della facoltà fisico-matematica c'è il corso di laurea per gli ingegneri architetti, e qui questo è il regolamento del 1803, che vi dicevo prima. E qui abbiamo, magari possiamo fermarci un attimo sul corso di studi per gli ingegneri architetti. Intanto la durata quadriennale, va bene? Al primo anno ci sono elementi di algebra e geometria, bene? Corso diciamo di equazioni algebriche, minimo di geometria analitica, eccetera. Poi eloquenza italiana. Questa è una tradizione della scuola politecnica, prevedeva che ci fosse un corso di lingua, perché secondo avevano insistito molto i direttori della scuola politecnica, c'era bisogno di ingegneri che sapessero scrivere bene le loro lezioni, senza errori, eccetera. Quindi ci fu un letterato abbastanza importante che a Parigi viene formato, André, per esempio, un letterato di valore, fu insegnante di eloquenza, diciamo. Poi l'analisi delle idee, che cos'è l'analisi delle idee? È logica in sostanza. Poi anno secondo, introduzione al calcolo, e qui appunto ci troviamo di fronte alla geometria analitica, alla teoria delle serie, fisica generale, fisica sperimentale, storia naturale. Poi terzo anno, matematica applicata, e qui ci troviamo di fronte alla meccanica, l'idraulica. Matematica sublime, che è il calcolo differenziale e integrale, ovviamente detto, poi elementi di architettura civile e militare e la grande. Poi ancora matematica applicata, matematica sublime, quindi un corso biennale, trattato legale delle servitù, e sì, perché l'ingegnere dovrebbe conoscere anche i regolamenti, no? Questa è la tradizione, e ancora architettura civile e militare. Questo è il corso che doveva seguire l'ingegnere per avere che cosa? Per avere un titolo di studio che ancora non gli consentiva di fare l'ingegnere, però era necessario per poter poi accedere alla professione. Invece c'era poi un corso biennale per i periti agrimensori, un corso di diploma, diciamo, c'era il diploma per i periti agrimensori che comprendeva anche questo, era regolamentato, c'era una scelta di insegnamenti sostanzialmente per chi viene, però non era, come dire, in serie, ma piuttosto in parallelo con qualche insegnamento comune. Ecco, allora, se qualcuno è interessato a riprendere il discorso che avevo fatto all'inizio, su dove era finita appunto della proposta. La classe di filologia di arti della proposta Mascheroni all'inizio, va bene, che comprendeva questi insegnamenti. Allora, disegno era finito. finito come materia complementare dentro la facoltà di matematica e di matematica. Analisi delle idee e letteratura italiana, lingua e letteratura latina erano finiti nell'eloquenza, quindi dentro la facoltà di giurisprudenza, la facoltà legale. E così anche e lingua e letteratura greca era sparita. Va bene? Questo è il confronto, già la proposta Mascheroni 1798 che prevedeva questa classe di lingua e di filologia e arte che poi sparisce nello statuto del 1802 e nel regolamento del 1803. E qui c'è il quadro, in questo modo, quindi quello che vi dicevo. Quindi, disegno va a finire facoltà di fisica e matematica, analisi delle idee va a finire nella facoltà legale, eloquenza latina va a finire nella facoltà legale, lingua e letteratura greca va anche questa nella facoltà legale, quindi non è vero che sparisce. Ecco, questo è il quadro comparativo in cui vedete un'altra cosa importante, sparisce la geometria descrittiva della materia di Monge, ecco, come ricordava il dottor Blanco prima, Monge nel 1797 era uno dei commissari della Repubblica Francese di Italia e aveva seguito tutta la formazione della Repubblica Cispadana, per esempio. In queste lettere che abbiamo trovato, che indirizzava da noi, con i decade, è chiarito, per esempio, che il nome Repubblica Cispadana era stato dato da Monge, cioè stato Monge a battezzare la Repubblica Cispadana, in questo modo. Lui aveva seguito molto. Monge è, per chi non lo sia messo, è il creatore delle corti di decreti, era fondatore della scuola politecnica di Francia. Ecco, quindi qui c'è un po' la corrispondenza, insomma, non so se può essere interessante. E vedete anche la fisica chimica, vedete che c'è nel 1798, poi in realtà viene annacquata. Fisica chimica è un'altra materia di attualità, cioè si perde. Da una parte, appunto, diciamo, il programma del 1803 è un po' più conservatore, diciamo, tanto, con queste due materie in qualche modo di punta, la geometria e che però sono di punta, ma non sono sufficientemente, diciamo, organizzate, sono ancora considerate un po' spurie in una tradizione, diciamo, un po' più aurica come quella di Giulio. Ma che in effetti per noi sono quanto di meglio in questo periodo è stato creato nel campo della matematica e anche nel campo della chimica. Fisica, non è la tecnica, la differenza è che non è la tecnica di pressione costante, non è la tecnica di volume costante, con la teoria dei gas, poi la durata che esiste in questi periodi, c'è un sacco, un allievo che è un po' di trito, la plus, è stato esaminatore, quindi nell'ambito di questo gruppo, e lo stesso Monge, il Monge non è solo un matematico creatore della geometria descrittiva, lui è uno. Per esempio, la prima liquefazione di un gas è stata effettuata al Monge, e poi la metallurgia come scienza nasce appunto la forgia dei cannoni, che appunto venne realizzata da un gruppo di studiosi, da un'equipe di studiosi di cui faceva parte anche il Monge. Ecco, allora vi dicevo, così si arriva all'organizzazione in ambito universitario di insegnamento di architetti e ingegneri. Però non siamo di fronte al ciclo completo, perché uno che ha il diploma, cioè non so come vi posso dire come era chiamato tecnicamente, diciamo, non era là, non era laureato in ingegneria, aveva un riconoscimento, una specie di un titolo di studio, ma che non era diplomato. Ancora c'è questa resistenza, diciamo, la competenza. Però non si poteva ancora esercitare. Per esercitare bisognava fare un tirocinio. Allora, questo tirocinio durava per 3 anni ed era determinato dal decreto vicereale, quindi di Boarnet, del 3 novembre 1805. Decreto vicereale sull'abilitazione ed esercizio delle professioni di architetto civile, perito di dimensione e di ingegnere civile. Si prescriveva appunto una pratica sotto certi ingegneri riconosciuti nel servizio prima di poter esercitare questa professione. Quindi in qualche modo si rientrava in un ambito di corporazione, però questo ambito veniva poi in parte spallato. Perché intanto è restituita a Ferrara, per compensare della soppressione dell'università, una scuola speciale di idraulica, d'accordo? Che era affidata a questo matematico, ingegnere Teodoro Bonatti, che era stato uno dei grandi ingegneri di questo periodo, che sono pervenuti. Ecco, anche una breve parentesi, cioè il discorso sugli ingegneri è un discorso molto articolato, io mi sto limitando alla professione, alla formazione, però per esempio uno potrebbe studiare luogo per luogo quali erano tutti gli ingegneri, quali sono le opere pubbliche che gli hanno fatto, no? Ecco, e allora per esempio è molto importante in questo periodo le opere degli idraulici, Napoleone ha creato il magistrato per l'ipotesi, è una creazione di Napoleone. Prima appunto Napoleone ha per la prima volta cercato di mettere insieme in modo organico i problemi delle varie regioni, che prima erano viste come zone di confine e quindi lasciate abbandono vicino, insomma, le grandi valli veronesi, cioè il primo progetto di bonifica delle grandi valli veronesi, che poi è una delle grandi bonifiche dell'Italia Unita, viene completato nella seconda metà dell'Ottocento, è stato progettato da Napoleone, questo primo, la commissione idraulica che si era riunita a Modena. Per due anni la commissione idraulica di Modena ha fatto un'analisi di tutti i punti che diventavano bonifiche, il sistema del Reno, la Veronesi, il Rosso, ogni dipartimento del dipartimento ci sono le lezioni, quindi dal punto di vista se si vuole lavorare in questo periodo, insomma, c'è da lavorare, sai, gli archivi sono pieni di relazioni puntuali, argomentate, di controdeduzioni, cioè c'è un lavoro ricchissimo, molto approfondito, sia in Italia sia all'estero, perché poi le parti rilevanti venivano mandate in Francia, sui problemi importanti Napoleone si riservava di inviare dei suoi funzionari, per esempio Pronetti, che è stato poi il direttore del Conte Pontchaussée, biografo di Perronet, è stato in Italia più riprese, per esempio, occupandosi della bonifica del Palù di Pontini, il grande libro di Pronetti, pubblicato solo nel 1822, sulla bonifica del Palù di Pontini. Ecco, quindi, dicevo, allora, ecco, in questo periodo, cioè, si mette però anche in modo un'altra cosa. Cioè, in qualche modo, un'organizzazione pubblica anche del sistema di perfezionamento delle attività. Quindi, prima attraverso questa scuola, diciamo, cioè, di avvio alla professione. Cioè, prima abbiamo questa scuola di idraulica che sostituisce un ambiente ex universitario, un anno di tirocinio, la scuola di Bonatti vale per un anno di tirocinio. Ecco, successivamente si ha 6 maggio 1806 quello che in qualche modo ricordava il dottor Blanco, cioè il decreto di Napoleone sulla formazione del corpo degli ingegneri da quest'anno. Ora la creazione di un corpo di ingegneri pubblici è la premessa necessaria per avere, diciamo, il perfezionamento, la formazione professionale anche in ambito statale. Quindi, fin quando, diciamo, la professione è solo congegnata poi al mercato, non c'è questa necessità. Quindi, la necessità si pone sempre, la necessità dell'organizzazione in ambito appunto statuale della formazione professionale si pone dopo che le professioni in qualche modo hanno degli sbocchi riconosciuti. Quindi la creazione appunto della scuola dei pubblici lavori, la formazione del corpo degli ingegneri da quest'anno è la premessa di questa poi creazione, invece di una scuola, invece come ricordava il dottor Bianco, poi invece non si realizza in questo anno. Questa è un po' la situazione come si viene a delineare nel Regno d'Italia. Cosa si può dire? Per la durata di queste riforme. Per la durata, per esempio, è abbastanza interessante vedere ritornare un attimo a Ferrara. Poi però si deve dire anche un po' che succede. Ferrara rientra poi nello Stato Pontificio. Però la scuola di idraulica viene mantenuta, Cioè, il regolamento dei pubblici lavori delle acque della Sfratti, l'istituzione degli ingegneri pontifici, viene ribadito con un moto proprio del 1817. Quindi, dal punto di vista istituzionale, diciamo, la restaurazione pontificia non torna al punto iniziale, ma recupera praticamente tutto quello che è stato fatto nel periodo napoleonico. Bene, sia a Ferrara che a Roma. Infatti praticamente si continua l'opera di Napoleone con la creazione di queste scuole di ponti e strade, che però si cerca, in un primo momento si pensa addirittura autonoma dell'università, e che poi nel 1826 viene invece inserita nell'ambito dell'università. D'accordo? Però è nato come canale e rimangono sostanzialmente gli insegnamenti. Da questo punto di vista c'è una continuità della restaurazione, avendo sostanzialmente lo stato pontificio rispetto appunto a queste trasformazioni del periodo di Napoleone. Qualcosa del genere rimane a Pavia. Vi ricordate che io ho cominciato a discutere proprio partendo da questa continuità negli elenchi dell'Università di Pavia degli insegnanti delle varie materie tecnico-scientifiche. Bene, d'altra parte non si può dimenticare che nel 1817 viene creato il Politecnico di Vienna. Vienna stessa ha la sua idea che viene fatta sul modello francese, quindi gli stessi austriaci, più o meno nello stesso tempo anche a Praga, viene creato il Politecnico, adottano il modello francese. E questo succede anche in Russia, della scuola politica russa, che succede addirittura negli Stati Uniti con gli esuli francesi, bene? E anche nell'America meridionale, perché un certo numero di esuli, tra cui gli italiani, uno storico che è stato allievo dell'Università di Pavia, ad esempio, qui si reca in Argentina e riorganizza, praticamente crea gli istituti scientifici dell'Argentina. E lì crea, secondo questi modelli, è uno storico della sua esperienza. Bene, allora questo è, quindi, allora ricapitolando un attimo, la formazione degli ingegneri viene inserita a livello universitario. Il progetto di creazione di una scuola professionale degli ingegneri post laurea, quella che cosa è ingegneria di specializzazione, in qualche modo viene delineato secondo il modello francese, però non ci si arriva, non sarà forse per la resistenza anche dell'Accademia, ovviamente sì, cioè, diciamo, perché diciamo, tenete conto che l'idea di organizzare l'università in questo modo è qualcosa di abbastanza originale dal punto di vista della storia delle istituzioni, perché in Francia continua a non esserci l'università. Quindi l'Italia ha un'organizzazione dell'università anteriore alla riforma napoleonica che poi le introduce all'università. Cioè Napoleone ha introdotto l'università in Francia 3-4 anni dopo che in Italia c'era stata la legge del 1802 e il successivo regolamento. Chiaro? Quindi da questo la legge diciamo dell'istituzione studiata da Lavarde a suo tempo dell'università francese è successiva di qualche anno all'altra. Quindi da questo punto di vista non c'è un rispecchiato della situazione francese, ma c'è semmai un ruolo autonomo che viene in parte seguito e modellato. Si ricorda, si dice che addirittura Napoleone, quando appunto progettava nella riorganizzazione dell'università in Francia, si sia preso gli statuti dell'Università di Torino del Settecento, no? Per certi aspetti totalitari che vive poi l'organizzazione dell'università, una specie di corporazione madre, come era stata la precedente l'ambiente dell'università. Ecco, allora, dicevamo, questa è la situazione di una parte dell'Italia. Le altre parti non sono strettamente omogenee. Quindi ci ancora confermano sul fatto che sul piano culturale non c'è un appiattimento sul modello francese. Allora, quali sono le altre due regioni dell'Italia? io queste cose so ancora meno, se possibile, di quel poco che so sulla identità. Comunque, qui abbiamo anche un po' di bibliografia in più. Per esempio, c'è uno studio di René Boudard, Experience française de l'Italie napoléonienne, Roma 1988, che è frutto di una ricerca di archivio, cioè da vent'anni molto comparata con studi precedenti, però diciamo una ricerca di archivio in prima mano su quello che succede negli stati appunto dell'impero, nei dipartimenti dell'impero. Quindi da una parte abbiamo Roma, poi abbiamo Pisa, la Toscana, la Liguria e così via. Punti principali, diciamo Roma, Pisa e Torino. Anche qui c'è una notevole vischiosità, intanto la prima cosa che ho, per esempio, per sopprimere l'Università di Perugia e di Siena, non si riescono mai a sopprimere completamente. Siena ha un buon collegio, un gruppo di medici piuttosto forti che funziona bene, anche Perugia ha le sue tradizioni, non si riescono a sradicare, quindi c'è tutto un dire poco, quindi poi ci sono tante situazioni locali molto interessanti. Però fissiamoci sui punti principali. Allora, a Roma viene creata l'università 27 luglio 1811, l'Università Imperiale di Roma, e due licei. Uno al Collegio Romano, uno rimasto ancora, come il Visconti, che è referente di questo, uno presso i Gesuiti, la Chiesa di Gesù. Il Collegio Romano è la sede storica dei Gesuiti, ma dopo la soppressione, nel 1771, non era naturalmente la sede dei Gesuiti, già quando si possessero per creare il liceo ora di Visconti. Il capo dell'Università di Roma viene messo un ex rettore dell'Università di Angers, italiano di origine, Ferri de Saint-Constant, che lavora di stretta intesa con il prefetto di Roma, grande prefetto, grande organizzatore di questo periodo, che è il prefetto Tournon. Ecco. La situazione delle università italiane è vigilata da due ispettori, tra cui il famoso biologo Cuvier, appunto, il direttore dell'anatomia comparata, e Coiffier e Curie sono i due ispettori. La Toscana entrò a far parte dell'impero nel 1807, l'università di Pisa fu inserita nell'ambito dell'università imperiale il 18 ottobre del 1809. E poi a Pisa, il 31 luglio 1812, venne organizzato un pensionato universitario come succursale delle scuole romane. Quindi la creazione della scuola romana di Pisa, l'organismo che poi fu ripreso nella guerra del Ducato, poi dopo l'unità d'Italia, appunto avvenne in questa maniera. Poi fu creato un liceo a Firenze e a Siena. Ecco, a Torino, appunto, si arrivò all'Università Imperiale nel 1811, dopo una lunga gestazione. Ecco, ora la situazione dell'insegnamento degli ingegneri in questo ambito è un po' meno delineata. Francamente ci sono tante cose che non so e non vorrei parlare di questo, che non so. A volte riesce, però poi è scarsamente utile per chi ascolta. Diciamo, però ecco, la mia impressione è questa, che per esempio a Torino nel 1804 Giuseppe Castellano, professore di geometria, tiene la produzione a un corso di geometria pratica per la scuola degli agrimensori, che doveva fornire il personale per il catasto. Cioè, per il catasto di Torino fu creata una scuola degli agrimensori, che però dura due anni. Cioè, la mia impressione è questa, che per la creazione degli ingegneri, in qualche modo negli stati dei dipartimenti dell'impero, si fa riferimento alla scuola politecnica. Cioè, ci sono questi commissari che vengono in Italia, che fanno anche gli esami a Torino, quale sessione di esami, e per esempio c'è il famoso Plana, però forse Grenoble, torinese, ci sono 20 studenti, questo deve essere una cosa studiata, diciamo, sul conto, una cosa per studiare, appunto degli italiani torinesi delle popolistiche. Sono una ventina, quindi tu sono fuori per Perassi, non sono fuori, sono estremamente studiati. Da Genova pure ci sono altri che sono studiati con i rifiuti, e così ci sono dalla Toscana, per esempio il famoso Gaetano Giorgini, poi suocero di Manzoni, è uno di questi, uno degli studenti toscani che vanno a studiare le colpe. Quindi da una parte, dall'altra parte si creano questi corsi ad hoc, cioè per certi problemi, insomma, qui è il grande periodo delle volte sul cartografiche, eccetera. Allora si creano per esempio dei tecnici ad hoc, per esempio il massimo risultato che l'altro di Torino fanno. Quindi la mia impressione è che all'interno dell'università dell'impero, ecco, l'insegnamento dell'ingegneria sia stato abbastanza depresso. E l'idea era di sedursi. Quindi una situazione più debole del Regno d'Italia, comparativamente. E invece si ha la cosa opposta per il Regno di Napoli. Cioè nel Regno di Napoli abbiamo un'accettazione più completa del modello francese. Bene? E viene creata, nel 1811, viene creata una scuola politecnica con una diretta sia militare che civile, diretta dal generale Costanzo, e nello stesso anno viene creata la scuola di applicazione di ponti e strade, diretta dal generale Campredonno. Non solo, ma il tribunale riconobbe come feriti i soli ingegneri di ponti e strade, quindi c'è appunto, questo è il punto principale. Cioè, per fare attività per conto dello Stato bisognava avere aver fatto il periodo di formazione all'interno della scuola, quindi non bastava prendere la scuola politica. Quindi qui abbiamo un modello scandinavo dell'università che è quindi il modello francese, in modo più netto, diciamo, no? Ecco, quindi questa è la mia missione. Ecco, Napoli è interessante perché diciamo è forse il modello più vicino che noi troviamo in Francia. Non abbiamo la forte tradizione dell'università, ma in qualche modo condiziona tutta la politica, diciamo, tutta la politica dell'istruzione superiore, anche quella dell'ingegneria, diciamo, nel Regno d'Italia, diciamo. E non abbiamo anche questa dipendenza proprio diretta dal fatto che poi bene o male sarà imposto anche per trovare posto direttamente per i laureati, per quelli che hanno studiato le loro politiche, le cose come ci sei, hanno un mercato anche in Italia, si pensa all'istruzione del nostro Stato. Quindi si pensa di organizzarsi per conto loro, quindi questo modello si prende più direttamente. E questo qui, diciamo, dipende probabilmente anche del parere così del direttore della pubblica istruzione che nel 1809, ecco, il Matteo Gaudi, che appunto abbiamo visto all'inizio di questo racconto, in ambiente pavese, diciamo, contrastare, no, questa organizzazione basata sull'università dell'istruzione superiore, progettata dal piano Massimo. Ecco, anche su questo, per Napoli mi sono avvalso di un vecchio libro di Federico Amodeo sulla vita matematica napoletana, in cui c'è abbastanza su questo periodo, però sono usciti, e però non mi è ancora arrivato, l'ho richiesto, sono usciti dei libri anche sui ponti strade, sul Regno delle Sicilie, che non so qualcuno di voi conosce, penso che c'è del materiale recente di studio su questo argomento che presto questo è, diciamo, un po' il quadro. Ecco, anche a Napoli la situazione poi rimane, quindi come abbiamo visto nel Nord, così anche a Napoli, dopo il ritorno dei Borboni, ecco, non viene distrutto tutto, la scuola di ponti e strade continua, anche la stessa scuola politecnica, naturalmente hanno le loro trasformazioni istituzionali, però il modello delle discipline rimane più o meno lo stesso. Il quadro delle discipline rimane più o meno lo stesso. Anche la scuola del ponte estate cambia nome, però diciamo mi pare che c'è una certa continuità. E quindi grosso modo, pur nei grandi cambiamenti istituzionali, diciamo, l'impronta che viene data in questi primi anni del secolo un po' condiziona tutta quanta la formazione degli ingegneri fino all'Unità d'Italia, ma direi anche oggi, perché diciamo il primo organizzatore dell'istruzione tecnico-scientifica in Italia è stato Carlo Matteucci. Carlo Matteucci che appunto ha vissuto per molti anni esuli in Francia, e quindi anche i primi modelli in questo modo sono di tipo centralista e di tipo politecnico, i modelli che vengono adottati da Matteucci, seppure molto contrastato la realtà locale. Mentre appunto quello che poi è il modello tedesco, che se uno ci domanda è quello che sono stati, questo è il modello tedesco e viene fuori di molto dopo. Cioè in Italia diventa operante forse intorno al 1800. Dal punto di vista dei libri, per esempio, dove uno vede una diversa ristrutturazione dei testi, insomma bisogna aspettare quasi l'inizio del secolo, vedere testi scritti come appunto secondo ottocentesca che si trova per esempio nelle università neuropolitecniche tedesche. Vediamo solo con molto piacere. Direi che c'è un primo e un secondo modello politecnico che in qualche modo improntano l'insegnamento scientifico-tecnico in Italia fino forse al 1880. E quindi direi che in qualche modo forse si può rispondere a una delle tante domande dottor Blanco prima. Certamente questa esperienza, diciamo, è un'esperienza importante, è un'esperienza in parte autonoma, quindi che non ricalca nei francesi, è un'esperienza che poi ha una durata, cioè non è un quadro effimero, anche se magari i regolamenti in parte sono effimeri, perché così come è stata istituita, magari con quelle leggi, perché dura tre anni, però dopo se ne ricarica o no, la struttura degli insegnamenti è quella, cioè, il quadro soprattutto disciplinare è fissato in un corso molto lento. Io direi che potremmo magari per cercare di rispondere alla qualche domanda se ce ne sono in questo momento. Grazie. Ecco, quindi appunto qualche domanda adesso, proviamo a mettere insieme. Sono molto grato, soprattutto per questo problema qui, io mi pongo subito una, insomma, che è scontata quasi, ma questo problema della connessione che c'è tra l'organizzazione della formazione, no, degli ingegneri ad alto livello il problema della rilevanza pubblica dell'ingegneria, cioè la formazione diventa un problema reale quando diventa reale anche il problema di un impiego pubblico degli ingegneri, che significa evidentemente quale cosa, cioè significa che la comunità politica, lo Stato, non so come dire, sente crescere il bisogno dell'impiego di persone professionalmente preparate in maniera omogenea, insomma, è certificata, approvata a un certo punto per fare delle cose. Ecco, allora, che cosa sono queste cose che servono improvvisamente? Questo qui è il nodo che mi interessa. Quello che servono è un po', questo c'è sostanzialmente una certa continuità anche se non si vuole con l'antico regime. E cioè, per esempio, Ferrara è una delle sedi dove c'è abbastanza da parlare, già alla fine del Seicento, pur non essendo un'università allora decisamente all'avanguardia, per esempio per questo insegnamento della matematica e del grafo. Perché? Perché appunto Ferrara aveva questa corporazione, cioè terra quasi sempre sott'acqua, no? Quindi con grossi problemi grafici, eccetera, quasi tutte le risorse erano spese per tenere in piedi il sistema di magistratura, per controllare. Quindi c'era una corporazione, che è la corporazione di lavorieri, cosiddetta, con una propria gerarchia, con quelli che guardavano gli operai, anche i notari, i genitori, anche i giudici, gli arci, cosiddetta. C'era quindi un'organizzazione, diciamo, strutturale. Allora, per gli alti gradi di questa si poneva già nel 600 la necessità di una formazione pubblica. Quindi direi che il problema di una formazione pubblica Cioè l'ingegnere si pone quando c'è appunto una corporazione che ha una funzione pubblica. Sì, però in quel caso qui il scatenante economico. Ecco, qual è il caso, questo problema? Qual è i problemi del periodo napoleonico? Il periodo napoleonico sono i problemi appunto delle acque e delle strade. Intanto appunto la necessità di razionalizzare appunto tutto il sistema idraulico, quindi di liberare finalmente dalle acque, territorio immenso, la colonia interlata, ci si andava di tanto, insomma, all'Alto, quando poi viaggio in Italia, passano di tanto, ci c'erano pure per canale, c'erano, quindi le valli veronesi erano un'estensione immensa, il territorio credo quando poi è stato modificato ancora più grande, nella zona del Regno di Bologna, c'era il problema dei popoli, poi c'era il problema appunto della costruzione. Stato napoleonico, c'era il problema delle strade, io per cui per esempio vengono anche progettati i passaggi attraverso le acque, tanto dell'essere connessa, quindi il grande problema sono questi lavori pubblici, questa è un'esigenza diciamo forte che c'è. Mezzo reabilitare, come? C'è cioè, reabilitare. Esattamente. Le strade che poi servono non solo per passare le merci, ma per passare gli eserciti. Che mi pare che risulta abbastanza evidente da tutte quelle diapositive che il militare torna con una certa certamente, sì, certamente. Anzi queste scuole, appunto anche la scuola politecnica di Napoli è vista civile e militare, ci sono dei rettori che sono generali. Nel Regno di Napoli invece, nel Regno d'Italia invece ci sono le scuole militari, per esempio l'Accademia di Modena di tre anni in questo periodo, come scuola diciamo architetta. Però se non è. No, quella non è scuola di ingegneria, mentre. Però diciamo, gli insegnamenti, l'Accademia di Modena, gli insegnamenti, diciamo, ci sono. Che anche allora più o meno viene. Se lei sono. Come si sono i canoni, Sì, di guardare era di artiglieria, in quel periodo era anche di artiglieria di genere. Lì probabilmente era la costruzione dei canoni, cioè della. Sì. Cioè la costruzione forti pure resiste. I cani forti, anche per. Certo. Poi sarà stato il porto, poi sarà stata la marina, che cominciava ad essere una cosa estremamente importante. Chi regolamenta le competenze del canone? Chi decide il canone? Alla fase 5, Collegio. Ci sono diciamo sul piano del Parlamento per forare. Per quello che riguarda le competenze, per quello che riguarda se i servizi sono pubblici, diciamo, è affidato allo Stato. Se il servizio è di pubblica utilità, allora sono tenuti dello Stato. E allora viene anche stabilito chi è che appunto per poter accedere preliminarmente uno deve aver fatto appunto questa scuola di ponti e strade quando c'è per esempio per le comunità. Per quello che riguarda l'attività libera c'è tutta una serie di normative che derivano dalla legge del 3 ottobre del 1805 sostanzialmente sono così le corporazioni popoli capi risultati insomma queste diciamo non vengono completamente abolite, infatti poi sono state per l'esame di abilitazione, che questa è una cosa mai che mettono una sorpresa, cioè l'università mai riuscito ad assicurare il titolo abilitante a queste professioni. Dottoressa Minesso. Sì, io ho seguito con molta attenzione la sua relazione, ne avrei moltissime domande, comunque ne enucleo qualcuna. Perché tra l'altro il mio interesse per questo periodo si è proprio accentuato in quest'ultimo tempo, partendo però da un'attenzione, come dire, diversa rispetto a quella del dottor Blanco, che è partito dal periodo, dalla fine dell'età moderna e quindi dal periodo delle cose del Montichaussée. Io al contrario sono partita dall'età contemporanea cercando di trovare, di individuare la fase in cui fossero stati posti i presupposti della figura e della formazione dell'ingegnere secondo caratteristiche che appunto sono più proprie, più specifiche di, del periodo post-unitario, in sostanza, contemporaneo post-unitario. E allora uno degli elementi che più mi ha interessato, insomma, nella relazione è questa accentuazione dell'importanza del periodo napoleonico. Io credo sia veramente, per chi voglia studiare la professione, se ne parlava poi prima di questo incontro con il dottor Blanco, e speriamo che se ne possa ulteriormente poi magari discutere anche in questa sede, come si diceva. Per chi vuole studiare la professione dell'ingegnere nell'Ottocento, io credo che quello spartiacque che è stato posto da studi anche recenti, penso riguardanti in particolare l'area lombarda e il Politecnico di Milano, ecco, e le scuole, quindi stiamo parlando appunto di epoca post-unitaria, l'accento che è stato posto sulla cesura dell'unità si è in realtà abbastanza artificioso. Non so se può essere anche questa l'impressione di chi invece ha affrontato il tema partendo appunto da da un'epoca precedente, sia artificioso, perché in effetti per lo studio della professione dell'ingegnere credo che queste, l'introduzione di questa normativa napoleonica sia effettivamente la chiave di svolta, lo spartiacque tra antico e contemporaneo. In particolare legato, credo, ed è questo che appunto le volevo anche chiedere di precisare ulteriormente, legato alla necessità della creazione di un apparato tecnico. Perché che cosa significano la nascita di queste scuole spesso collegate ai corpi, no? Alla presenza di un corpo di ingegneri, di ponte strade. E la necessità appunto dello Stato, per tutti quei motivi che anche lei sottolineava prima, sollecitato anche da queste ultime domande, di venire incontro a un'esigenza ad esempio di razionalizzazione del territorio. E in questo senso io sarei forse meno radicale nell'individuare delle disomogeneità così forti tra queste tre aree regionali che lei ha individuato. Perché io vedrei piuttosto, ad esempio, tra il sud Italia, tra i meridioni, quello che può essere il regno delle due Sicilie, esclusa la Sicilia, e l'area nord-orientale, come lei l'ha chiamata, affinità anche piuttosto notevoli. È vero che ad esempio nel Regno Italico non si crea una scuola di ponte strade, ma c'è il progetto di cui si accennava, che ricalca abbastanza quella che è la struttura. Se noi andiamo ad analizzare nel concreto anche il tipo di insegnamenti che appunto in queste scuole venivano praticati, che ricalca abbastanza la struttura di quella scuola istituita nell'11 da Mira a Napoli. E se guardiamo la professione privata che viaggia su un altro canale, su quel canale che lei indicava, l'università praticantato, ed è anche nel regno di Napoli l'università aveva dei corsi che di solito frequentavano quelli che poi divenivano i liberi professionisti. Quindi io vedrei abbastanza, cioè attenderei un po', ecco, mentre concordo sul fatto che i territori annessi seguono un'altra storia, in sostanza, che è quella legata, collegata al fatto di subire in qualche modo direttamente, di essere entrati a far parte integrante, o comunque nel disegno napoleonico del territorio francese, per le altre aree della regione vedrei un'attenuazione di queste diversità e l'elaborazione di un modello dei tratti abbastanza comuni che poi passa sicuramente nella legge Casati, negli ordinamenti applicativi Matteucci e sino, direi appunto, sino a questo modello del Politecnico. E poi sul praticantato le volevo chiedere, perché ad esempio ho ben presente l'area veneta, questi 4 anni, che poi possono essere anche 2 in alcuni casi, no? Di praticantato presso un ingegnere, in realtà poi non sempre, ecco, vengono, cioè è una disposizione legislativa che spesso nella realtà concreta non trova applicazione, quindi anche qui ci troviamo di fronte all'importanza delle disposizioni napoleoniche come momento propositivo quanto poi alla loro applicazione in relazione nella realtà il giudizio deve essere un po' più caro. Sì, comunque diciamo che ha fatto diverse domande, penso che sarebbe rispondere da tutto. Comunque, su una questione secondo me importante riflettere. Allora, la prima riguarda diciamo, questa continuità del periodo napoleonico. Il taglio del tempo se c'è, sicuramente c'è un esquartigato importante in questo periodo, che è il problema di certo periodo del risorgimento, in cui si fa tutto in casa. E questo è tragicissimo. Però ecco, in comunità d'Italia la formazione degli ingegneri c'è anche un momento di discontinuità. Ecco, a che cosa è dovuta la discontinuità? È dovuto che in effetti diciamo, questo modello così del primo 800 e in realtà diciamo, 1860-70 che cosa fornisce? Fornisce ancora diciamo,